21. L'arresto. Tristi si succedevano i giorni della mia dimora nell'Annunziata, le notti più tristi ancora, preoccupate com'erano dell'incerto avvenire. Riunite le carte necessarie, Cassano scrisse una lunga lettera da mandare insieme con quelle alla congregazione dei vescovi regolari in Roma. Sosteneva l'egregio prelato in quella lettera la mia domanda per la secolarizzazione, annoverava i torti e le imprudenze di Riario e concludeva che non avendo io sortito dalla natura disposizione e vocazione di monaca, assegnava a miracolo che spinta all'estremo della disperazione non avessi infranto le regole principali dello stato monastico. Laonde, veduta l'impossibilità di persuadermi a passare nel chiostro il resto della vita, ei credeva cosa debita e giusta che io deponessi l'abito benedettino, vestissi puramente di nero e abitassi celibe nella casa materna col titolo di canonichessa. Data che ebbi io pure al Cassano lettura della mia domanda, gli resi grazie in quei termini che suggerisce la gratitudine. Vidi poi sigillare il plico di carte per mano dello stesso vicario che, in attesa del giorno postale, le ripose sulla scrivania. Dopodiché, contenta, mi ritirai nell'Annunziata. Maria Giuseppa s'abbandonò ad una gioia fanciullesca. Credette tutto finito ed aveva ragione. Quella sera ci trattenemmo infino ad ora tarda, immerse nel diletto tanto caro ai miseri di creare sogni dorati per l'avvenire, ma che valgono i progetti, ancorché solidi e maturi, quando l'evento non li seconda. 2 giorni dopo venni a sapere che Cassano era allettato. Questa notizia ci conturbò. E le carte? Sulla scrivania. E il vicario? Sospeso. E il nuovo superiore provvisorio? Un nemico di Cassano. E il cardinale successore? Cosenza. Speranze, addio. Che fare in Capua? Mi ci trattenni sulle spine per altri 15 giorni. L'ex vicario mi consigliava a non rimanerci più a lungo, poiché, sapendomi protetta dal Cassano, Riario non avrebbe mancato di rannodare l'interrotto filo della persecuzione. D'altronde, mezzi a tentare la sorte in altro paese io non avevo. Per far fronte alle spese avevo dovuto vendere il mio pianoforte e qualche oggetto di valore. Me ne tornai dunque in Napoli e presi stanza nel convento di San Nicola da Tolentino dei Padri della Missione, posto nel quartiere di San Carlo all'Arena. Dimorava lì il padre Spaccapietra, persona non meno degna di venerazione per le sue virtù che per la scienza e molto potente in Roma, centro delle sue aderenze. Raccontatigli estesamente i miei mali, gli chiesi consigli ed aiuto. Spaccapietra restò commosso, si fregò la fronte a modo di persona che accuratamente pondera un'opinione prima di emetterla, poi, voltosi a mia madre, credo, disse, che l'argomento dell'arresto sia stato un equivoco preso dal generale Torchiarola. Si è dato, sì, il caso di adottare tale misura di rigore, ma solo quando la religiosa aveva dato motivi a scandalo pubblico e massimamente se ne portava il frutto nel seno. Vogliate compiacervi di indicarmi la vostra abitazione? Ne parlerò oggi stesso con Sua Eminenza e fra giorni vi farò noto l'esito del mio abboccamento. Rassicurata dalle parole dell'eccellente missionario, me ne ritornai a casa alquanto confortata dalla speranza che la provvidenza non m'avesse abbandonata del tutto. Passati pochi giorni, veniva Spaccapietra a riferirmi d'aver tenuto col cardinale un lungo discorso sul proposito di me. Riario aveva formalmente negato d'essersi recato dal re e aver ottenuto l'ordine del mio arresto. Ehi mentiva, sì, mentiva assolutamente. Spaccapietra aveva osservato non potermisi usurpare i frutti della dote. Riario condiscendeva a farmi avere le 5 mesate arretrate e prometteva di lasciarmi in pace da allora in poi. Trascorsero alquanti mesi di tregua. Mia madre, paga di vedermi liberata dall'accanimento dei preti, evitò nel carnevale di dare in casa festini e trattenimenti come era usa di fare ogni anno. Di questo provvedimento altamente mi compiacqui, risoluta com'era a schivare nuove molestie e condurre vita ritirata, divisa fra le cure domestiche e lo studio. E perché l'apprendimento delle storie patrie mi parve doveroso non soltanto all'uomo ma pure alla donna italiana dei tempi nostri, trovai modo di procurarmi i migliori autori in questo ramo dell'educazione nazionale. Allora scorsi Machiavelli, Guicciardini, Botta, Santa Rosa, Colletta e qualche storico della guerra d'indipendenza dell'America e della rigenerazione dei Greci. Nel mese di giugno una mia sorella, dimorante in Gaeta, scrisse che suo marito era gravemente malato. Mia madre partì per visitare il genero infermo. Io non volli accompagnarla. Si trovava là Ferdinando II, il quale era allora disgustato del soggiorno di Napoli, non altrimenti che quel discendente di Eraclio che, fattosi assassino del proprio fratello e flagello dei sudditi, preso in disgusto e reggia e capitale, si ricoverò in Sicilia, perseguitato di e notte dall'ombra dello sgozzato Germano. Partita dunque la madre, passai con Maria Giuseppa in casa di un'altra sorella maritata dimorante in Napoli. Ella abitava nel vico canale sopra Toledo, in un sesto piano. Molte in quel tempo, essendo le sue ristrettezze per cagione del consorte, il quale, compromesso nelle convulsioni del 1848, era stato sospeso nell'esercizio dell'avvocatura e viveva tuttora in angustie sotto la sorveglianza della polizia borbonica. La scarsezza dei miei mezzi e la penuria del cognato non mi permettevano di far uso della carrozza ogni volta che qualche urgente faccenda mi chiamava fuori di casa, e fra tali faccende urgenti entrava pure la necessità di dispensare il segreto carteggio degli affiliati ad una società patriottica, allora non meno efficace che benefica, oggi superflua se non dannosa, ufficio che persone dell'altro sesso prestar non potevano senza risvegliare i sospetti di qualcuna delle innumerevoli spie che in quel tempo formicolavano per le vie, nelle case e perfino dentro le chiese di Napoli. Ora, se non m'era dato uscire ogni volta in legno, come avrei potuto girare a piedi col vestimento benedettino in una città dove gli scioperati giovanastri si facevano un vezzo di non lasciare libero il passo alle donne per la via? Lasciato perciò l'abito di monaca, ne presi uno di seta nera, conforme al parere che dato mi aveva il cardinale Cassano e come pure altre persone di buon senso mi consigliavano. Il padre Spaccapietra partiva frattanto per il Giappone in una missione, lasciandomi in ricordo l'imitazione di Cristo e la memoria della sua carità esemplare. La sera del 13 giugno, ritirata nella mia stanza con Maria Giuseppa, mi tratteneva a sé colei riandando le peripezie sofferte nei diversi chiostri e scambievolmente consolandoci e rallegrandoci di poter alfine respirare liberamente. Tutto infatti d'intorno a noi spirava calma, benessere, espansione, regnava dappertutto la felicità, l'aria era tiepida, imbalsamata dai profumi che le piante innamorate del belvedere spiravano, mentre ingenue giovinette bisbigliavano nelle sottoposte finestre, mandando di tratto in tratto sospiri, manifestazioni di desideri arcani. La luna in alto proseguiva solinga il corso, superba del suo splendore, fra mezzo un corteggio di nuvolette frangiate e inargentate con stupenda leggiadria. Io mi sentiva rinascere al pensiero di aver recuperato il posto che assegnato m'aveva da principio la provvidenza, di poter liberamente ormai offerire la tenuissima mia cooperazione al servigio dei miei simili. Ma la fortuna, che tanto sovente si prende gioco dell'umana felicità, accingevasi a farmi pagar caro quel lampo di ebbrezza. Maria Giuseppa, la più costante e fedele partecipe delle mie disgrazie, riponeva tutta la sua felicità nell'assicurarmi che non mai m'avrebbe abbandonata, finché sarei infelice. Chi le avrebbe detto che quella sera era l'ultima in cui stessimo insieme? Il giorno appresso, ad un'ora pomeridiana, era a pranzo coi miei parenti. Fu suonato alla porta. La vecchia fantesca di mia sorella s'affaccia alla finestra che metteva sulle scale e, tutta turbata, ci dice che un prete cercava di me. «Fatelo entrare?» rispondo, credendo fosse non altri che l'ex vicario di Capua uso a visitarci talora. Ma il cuore, a disastri assuefatto, presago sempre di malore, cominciò a palpitarmi gagliardamente. Odo i passi non d'una sola, ma di più persone. M'accosto all'uscio di sala per udire e odo un alterco fra i venuti e mio cognato. Oltrepasso la soglia e vedo un uomo di proporzioni colossali, di testa enorme, di faccia a luna piena, una specie di briareo, che stava padronalmente adagiato sul divano. Accanto a lui sedeva un prete livido, smilzo, di aspetto sinistro, mentre mio cognato, costernato, puntava entrambe le mani sulla spalliera di una seggiola. Sebbene ignoti, quei due sembianti mi fecero raccapricciare. Il gigante, dato fiato alle fauci, con voce non dissimile al muggito della conca marina, «È ella la religiosa Enrichetta Caracciolo Forino?» mi domandò. «Sì», risposi, «con chi ho l'onore di parlare?» «Col commissario Morbilli». Dio, qual nome! Mi scossi come per violenta scarica di elettricità. Era lo spavento di tutta Napoli. Il duca Morbilli, povera nobiltà della patria di Vico, cagnotto fedelissimo del re e satellite del carretto, era salito in grido meno per virtù del suo operosissimo servizio che per il terrore sparso dalle sue visite e per la mitologica voracità che lo travagliava. Chi dei napoletani non avrebbe preferito ad avere in casa, non dirò lo spirito maligno, ma almeno il fuoco, il vaiuolo o altro micidiale malanno, anziché il Morbilli? «E questi», continuò egli a dire accennando al compagno, «questi è un prete della curia». Capii subito tutto quello che mi aspettava. «Che cosa vogliono da me?» domandai a modo di carbonaro sorpreso in flagrante dal commissario. «Ella è arrestata». «Arrestata? Possibile, perché?» «Possibilissimo, e dovrà seguirci». «Dove?» «In convento». «Ma in quale convento?» «Nel ritiro di Mondragone». «Posso io sapere per sentenza di quale tribunale o almeno per ordine di chi?» «Questo non la riguarda». Avvi dei momenti critici nei quali Dio infonde al debole magnanimità perché non si lasci schiacciare dalla prepotenza del più forte. «Mi riguarda più che non riguarda lei stessa», dissi con fierezza a quella strisciante eccellenza. «Non di meno sarà seguita. Vado a vestirmi». Iniziato in tutti i segreti della professione di berroviere, Morbilli volle indagare se dalla mia stanza si fosse potuta effettuare qualche evasione e, veduta una sola uscita, si compiacque di permettere che io mi vestissi in libertà. Fui allora seguita da Maria Giuseppa, la quale, dall'estremo spavento, privata di ragione e di favella, gettò la più grande confusione sì nella mia che nella sua propria conciatura. Mezz'ora dopo eravamo entrambe pronte. «Non vi fate così abbattuta», dissi alla conversa, carezzandole leggermente la guancia. «Ricomponetevi prima di uscire, che quella gente non ne provi soddisfazione». «Dite bene, signora», rispose ella, e per compiacermi si sforzò di sorridere mentre a stento tratteneva le lacrime. «Potete andare avanti», disse il commissario al prete. «La signora non ha fatto resistenza». Il vampiro, fatta la riverenza, disparve. Morbilli, voltosi a Maria Giuseppa, che carica di scialli ed altri oggetti stava pronta a seguirmi. «E tu chi sei?» le domandò. «Sono la conversa». «Tu non accompagnerai la signora al convento», soggiunse il ciclope. «Perché?» disse l'una di noi. «Perché?» replicò l'altra. «La signora sarà condotta al ritiro. Tu verrai meco al commissariato per esservi interrogata e quindi rimandata al tuo paese». Gli urli, le strida, i lamenti che mandò la povera giovine, il suo viticchiarsi alla mia persona come per cercare rifugio e protezione, poi il pianto e i gemiti e la disperazione di cui si dava preda. Stavami per far perdere il contegno. Se non che la commozione, repressa a forza dall'amor proprio, in tale spasimo mi metteva i muscoli della bocca che pur volendo parlare non avrei potuto. La povera Giuseppa non cessava di abbrancare ora l'abito, ora la mano mia e di gridare: «Oh cara, adorata signora, se non volete staccarvi dalla vostra povera conversa, perché non scacciate questi birboni?» Il commissario, chiamato un ispettore che attendeva all'uscio, gliela consegnò. Io non parlai punto per tema di prorompere in pianto, ma diedi soltanto a Giuseppa un bacio di ultimo addio e pregai la vecchia fantesca di non abbandonarla finché non fosse rimandata ai suoi parenti. Indi, volta al commissario, «Spero», dissi, «che sapendo di chi io sono figlia non vorrete farmi fare il tragitto a piedi». «Né impedirete che io e sua sorella l'accompagniamo», soggiunse mio cognato. Morbilli fece venire una carrozza e permise che i congiunti mi accompagnassero. Intanto Maria Giuseppa non cessava di stringermi le mani e coprirle di baci. Era tanto straziante la desolazione di quella infelice che n'ebbe pietà perfino un Morbilli. «Coraggio!» le dissi finalmente e, svincolandomi da lei, uscii la prima porta. Le scale erano tutte gremite di birri, come se si fosse trattato di sorprendere nella macchia una banda di briganti, E più di 100 persone erano radunate fuori del portone per godere lo spettacolo. La chiesa e l'edificio di Santa Maria delle Grazie di Mondragone, posti presso San Carlo alle Mortelle, formano il ricovero che Elena Aldobrandini, duchessa di Mondragone, preparava nel 1653 per le dame napoletane che, venute in basso stato e rimaste vedove, volessero trarvi vita tranquilla e monastica. Oggi vi è pur ammessa qualche educanda, ma in sostanza lo stabilimento è destinato all'uso di ergastolo. Giuntavi poco innanzi alle 3, montai la scalinata che dalla prima porta di strada conduce sopra. All'ingresso della seconda trovai postati i due preti e presso a loro la superiora che colà chiamasi priora. Uno dei preti era quello spettro di banco che condotto aveva morbilli per il mio arresto. Era l'altro il superiore ecclesiastico del locale, quello desso che per la sua furibonda reazione lasciò nel 1848 tristissima rinomanza del suo carattere. Quel desso che, come regio revisore, cancellava sempre dai manoscritti l'italiano vocabolo eziandio, forse perché ricordava nella desinenza il nome di un vindice supremo. Per l'immensa sua devozione alla dinastia borbonica e per il famigerato suo oscurantismo decorato con l'ordine di Francesco I, non voleva essere chiamato altrimenti che cavaliere. Dagli inchini che fece costui al commissario e dalle parole che si scambiarono fra loro, compresi che erano amici di vecchia data, cagnotti attaccati allo stesso guinzaglio. Mio cognato, che a stento aveva fino a quel punto trattenuto lo sdegno, proruppe in acerbe rimostranze contro la condotta del cardinale. «Se non tacete all'istante», gli disse il superiore ecclesiastico, «vi ricaccerò le parole in gola con due schiaffi». «Se non andate subito per i fatti vostri», soggiunse il commissario, «vi manderò in prigione». Afferrai cognato per un braccio e scossolo fortemente. «Perché vi riscaldate voi?» gli dissi, «mentre io che sono la vittima taccio. Ora son giunta al carcere. Potete ricondurre la sorella, per favore?» Tutti serbarono silenzio. Il commissario, avuto dal prete della curia la ricevuta della mia persona, se ne partì ed io accennai alla sorella di alzarsi per non dare al marito l'occasione di compromettersi. «Scrivi tosto a Gaeta», le dissi nell'atto di abbracciarla, «scrivi tutto alla mamma e per carità prendi per Maria Giuseppa le stesse cure che ti saresti presa per me». Rimasta sola col birro e coi due carcerieri al fianco, mi fecero salire al terzo piano del fabbricato, quindi mi menarono in una vasta e tetra camera che aveva l'aspetto di una prigione da suppliziato. Due soli pertugi vi davano luce, una luce scarsa e cupa per cagione dell'alto palazzo Villanova che vi era di faccia. Le pareti ignude e insudiciate, la soffitta a travatura, il pavimento a mattoni rotti, per mobilia due sole sedie apoplettiche e null'altro. La priora e il prete superiore dell'Inquisizione letteraria uscirono fuori per discorrere a bassa voce. Rimase con me il solo prete della curia. Chi crederebbe alla galanteria di un vampiro? Vedutami sola, derelitta, sconsolata e priva d'ogni difesa, quel prete, che non era vecchio, pensò di trarre profitto dall'opportunità facendomi intravedere il vantaggio della sua protezione. Preso dunque un atteggiamento da cascamorto che fece maggiormente spiccare la sua ributtante fisionomia, stendendo le scarne mani verso di me, «Se qualche cosa vi occorre», mi disse, «ditelo pure liberamente alla priora con la quale avrete già simpatizzato, come suppongo vorrete simpatizzare anche col vostro devoto servitore». Accompagnarono l'ultima frase un profondo inchino e un sorriso che mise allo scoperto l'orrida sua dentatura. «Mostro esecrando!» gridai con gli occhi stralunati e additandogli la porta con l'indice. «Vattene alla malora e riferisci a chi ti manda qui, che spero con l'aiuto del cielo di vedere ben presto e lui e te e tutti quelli che vi somigliano mandati in perdizione». Non diede alcun indizio di rossore, ma ripreso il cappello, quatto quatto, guadagnò l'uscio, che io richiusi con furia alle sue spalle. Allora, ritornata nel mezzo della stanza, mi inginocchiai, giunsi le mani e sollevati gli occhi al cielo, il cuore a Dio, pregai dal più profondo dell'anima per la calunniata innocenza. 22. Il ritiro di Mondragone. Da circa un anno e mezzo non più avvezza all'azione benefica e struggitrice dell'isolamento, ravvivata nel battesimo del consorzio civile, incomparabilmente più crudeli provai gli effetti del silenzio che di nuovo mi circondò. Non una sola voce all'intorno, non una traccia di pensiero vivente, non più quel grato risuonare dell'umana operosità, null'altro nel novello deserto che il monotono ronzare delle mosche in contrasto con l'uragano che imperversava dentro di me. Un supremo pensiero di primo tratto mi preoccupò. Quale autorità ha decretato il mio arresto, l'ecclesiastica o la civile? Era io una volta ancora la vittima dell'animosità di Riario e della sua camorra, o piuttosto qualche imputazione d'altra natura, provenuta da spionaggio, mi gettava negli artigli del potere politico? Probabile il primo, possibile il secondo, più probabile ancora la concorrenza d'ambedue. In qualunque di queste ipotesi, il mio stato era doloroso, orribile, al più alto grado, io era donna. Troppo propenso il mondo al sospetto e alla maldicenza, come avrebbe giudicato il mio repentino confinamento in un ritiro, la cui reputazione equivoca poteva somministrare facile appiglio alla calunnia. Riposta fuori da ogni contatto con la società, di quale mezzo efficace mi sarei valsa per confutare le false voci che i preti non avrebbero mancato di spargere a detrimento della mia reputazione e a loro propria discolpa? All'idea di quest'ultimo e più barbaro colpo del destino, non seppi più rinvenire nell'intrepidezza quella morale energia con che aveva resistito fino allora ai colpi della sventura. Per essere uomo e non donna, non fosse che per pochi giorni, per trovarmi in Londra, in Parigi, in America, in un paese libero, non d'altra cosa padrona che da alcuni fogli di carta e di una penna, avrei rinunziato, non dirò, all'esistenza della quale può soltanto disporre chi l'ha creata, ma sicuramente a un trono se ne avessi avuto a mia disposizione. Un'ora dopo fu bussato leggermente all'uscio. Non risposi. Il picchio è replicato e io zitta. Al terzo picchio sento la voce della priora che mi prega di aprire. «Non son padrona neppure di questo tugurio?» rispondo con voce adirata. «Sì, signora, siete padrona, ma dovete aprire. Atterrate l'uscio, se vi pare, io non vi apro». La priora prese a supplicarmi con parole umili, giustificando il disturbo che mi recava con la necessità di fare una cosa per me. Aprì allora e la vidi atterrita dall'atteggiamento che io avevo preso. Due converse vi portavano un letto, un tavolino e una lucerna. Abbiate, dissi, la bontà di procurarmi l'occorrente per scrivere. Ella storse il viso, a modo di persona che ha da comunicare uno spiacevole annunzio. Poi, biascicando le parole, «Debbo», disse, «debbo con mio dolore farvi sapere che il leggere e lo scrivere vi sono proibiti dai superiori fino a nuovo ordine». «Non potrò dunque corrispondere per iscritto, neppure coi miei parenti!» «Oh, questo sì, purché io legga le lettere vostre prima che siano sigillate e che prenda notizia di ciò che conterranno le risposte innanzi che siano consegnate a voi!» «Proibito qualunque libro, senza eccezione!» «Abbiamo qui parecchi libri devoti, ne potrete leggere quanti vorrete!» Il cerchio della mia vita si restringeva sempre di più. Le domandai quali fossero gli ordini precisi sul conto mio. Ordini rigorosi, rispose. Proibito di vedere o di parlare con chi che sia. Non potete ricevere né i parenti, né gli amici, né i conoscenti vostri, né tantomeno gli estranei che venissero per avventura a cercar di voi, anzi, per torre il caso di un'intelligenza clandestina, vi sarà assolutamente proibito di affacciarvi alle finestre, di salire al terrazzo e di passare per il parlatorio. E per colmo di severità? Vediamo quando la finirete, interruppi. Non vi sarà permesso di avere persona alcuna al vostro particolare servizio. Di grazia, le dissi, come si chiama questo vostro locale? Il ritiro di Mondragone? Sarebbe meglio chiamato il carcere del Santo Uffizio. Sapreste dirmi ancora se vi sarò ritenuta per lungo tempo? Chi lo sa, potrete starci 2, 3, 5, 10 anni a volontà dei superiori. Per avvezzarvi più presto alla pazienza dovreste smettere la speranza di uscirne presto. Non mi nascondete la verità, vi prego. Sono forse condannata a vita? Raccomandatevi a Dio e pensate all'anima vostra. Basta! Gridai e a queste parole caddi priva di sentimento sul mattonato. Riaperti gli occhi, mi trovai sdraiata sul letto e nuovamente sola. Notai allora con raccapriccio un disordine nelle idee, un intorpidimento della ragione di cui volendolo pure non poteva indagar la causa. Ch'io fossi smarrita di mente ne aveva chiara coscienza, ma quell'aberrazione d'onde mai proveniva? Era essa l'effetto del deliquio? Era dell'eccessivo cordoglio? Oppure derivava essa dalla contusione riportata alla testa cadendo sopra i mattoni? Quanto più mi sforzava di riafferrare il timone della ragione, che di mano mi sfuggiva, tanto mi avvedeva ch'io non era più padrona come prima. Fiacco il discernimento, confuse le rimembranze, perturbati i sensi, tutte le facoltà scombussolate. E nel centro di quel caos un'idea fissa, sovraneggiante, un'immagine molestissima come un martello tormentoso. L'uomo che aveva amato tanto appassionatamente, Domenico, fattosi prete, vestito da prete, mi pareva che stesse in atto di leggermi la sentenza di morte. Comincia da questo momento e continua per qualche tempo non facile a determinare un periodo della mia esistenza oscillante a intervalli fra il senno e lo sconcerto delle facoltà mentali. Risparmierò alla lettrice o al lettore la noia che il racconto dei miei deliri gli recherebbe. Ma nel continuare il filo della narrazione, con uguale esattezza e per il solo dovere di non interporvi nel mezzo una lacuna, mi sia lecito di premettere qui una preghiera. E questa è ch'io non sia aggravata della responsabilità di alcuni atti commessi negli intervalli di quella forsennatezza, atti che citerò per dovere di fedeltà, ma la cui riprovevole natura sono io la prima a deplorare. Sull'imbrunire entrò col lume una conversa e le tenne dietro la priora munita di sali e di caraffini che volle farmi odorare. Le dissi aver immaginato e voler mettere in esecuzione un mezzo che deluderebbe la pubblicità del mio supplizio. Il tono serio e cupo con che espressi quell'intendimento la fece ridere. Era una donna sotto i 40, fresca e vegeta ancora ed affabile, anziché no. Il mio stato la muoveva a pietà. Poiché non si riguardava di rivolgermi parole di compassione, ma non meno tenera della sua carica, aspirava all'approvazione dei superiori, eseguendo pedantescamente i loro ordini. Tale ingrata incombenza io nel suo caso non l'avrei accettata. Più tardi mi fece portare una scodella di brodo, la rifiutai. La notte che seguitò fu la più angosciosa della mia vita, vera agonia di morte. Mi alzai più volte per rinnovare la preghiera a Dio di conservarmi sana la ragione. Fatto giorno mi portarono il caffè. Lo rimandai, non tocco, e così fu rimandato anche il pranzo. 2 ore dopo vennero i miei bagagli. La priora mi consegnò una lettera di mia sorella già aperta da lei. Quanto blandite furono le pene mie dalla notizia che Maria Giuseppa era stata, dopo l'interrogatorio, consegnata a suo zio. Aggiungeva mia sorella d'aver già scritto a nostra madre, la quale, informata dell'avvenimento, non avrebbe mancato di chiedere un'udienza al re. Il capo mi girava, la mano si rifiutava di scrivere. Ciò nondimeno, con poche righe, l'avvertii che per timore che io non reclamassi al papo o a altra autorità superiore, le mie lettere venivano aperte e lette. Badasse dunque a ciò che scriverebbe. Il giorno appresso ricomparve all'uscio l'antipatica figura del superiore ecclesiastico. A quella vista mi sentii ribollire il sangue e, incapace di frenare il traboccante sdegno, proruppi in imprecazioni contro il cardinale e contro il re. Strana accoglienza, un direttore della censura pubblica. Don Pietro Calandrelli credette di poter imporre silenzio a me, come lo faceva ogni giorno agli autori di grammatiche e di dizionari, ben lo sa egli, se lo feci chetare io. Ritengo, gli dissi, per insulto la visita di preti, censori ed inquisitori. Liberatemi dunque della vostra presenza se non volete che io ricambi insulto per insulto. L'ingiusta collera, rispose egli, non vi permette di vedere che oltraggiate i vostri benefattori. Quando sarete calmata da questo stato di irritazione, verrà a trovarvi anche Sua Eminenza. Indietreggiai di un passo e, puntando l'indice, ditegli che non ardisca perché diverrei una tigre, esclamai. Il prete si volse alla priora. Lei è pazza davvero, disse. Andiamo via. Quest'epifonema del prete diede il tracollo al disordine delle mie idee. Sono dunque realmente pazza? Sono pazza, andai dicendo fra me. Erano scorsi intanto 4 giorni, da che perseverava a rifiutare ogni alimento. Una lunga malattia di languore non mi avrebbe più profondamente incavate le gote. Il volto era divenuto del colore del bronzo, il bianco degli occhi di quello dello zafferano. Se mi coricavo in cerca di una tregua all'orrenda fissazione che mi perseguitava, eccomi di bel nuovo innanzi l'immagine di Domenico, prete, nell'atto di spedirmi al patibolo. Insomma, priva d'un solo barlume di speranza, inferma di corpo e di spirito, io invocavo ad ogni istante o una morte immediata o la restituzione della libertà. Al sesto giorno le forze per alzarmi di letto mi mancavano, né per questo condiscesi a pigliare i rimedi che la priora mi suggeriva. L'indomani fu mandato per il medico. Era il dottor Sabini, cuore aperto e, come seppi di poi, caldo di generoso amor di patria. Udito dalla priora il racconto dei miei mali e come io mi ostinava a ricusare qualunque nutrimento, tanto meglio, osservò. Più giovevole che dannoso riuscirà il digiuno alla sua salute. Appena sarà cessata la febbre, la forzeremo a cibarsi. Chiese il calamaio per una ricetta, lo trattenni con la mano per impedirglielo. Perdereste il tempo, gli dissi. Sono fermamente risoluta a non prendere alcun rimedio. Voi siate pure il benvenuto se vi conduce l'umanità, ma se venite a prestarmi i soccorsi della vostra professione, io vi congedo al momento. Non aveva finito di parlare quando riapparve all'uscio la testa del prete superiore. Signor Sabini, disse, senza oltrepassare la soglia, il cardinale vuol sapere da voi lo stato dell'inferma. A quella voce, agitandomi, convulsa nel letto, gridai quanto n'aveva in gola: via di qua, papasso mascherato! Calmatevi, per carità, mi disse il Sabini. Signor Cavaliere, soggiunse rivolto al messo del cardinale, l'inferma è affetta da una febbre nervosa biliosa, febbre complicata con qualche sintomo di congestione cerebrale. Se ella sarà docile alle mie prescrizioni e soprattutto se vorrà rinunziare al pensiero d'attentare ai propri giorni per mezzo dell'inedia, spero che potremo superare l'infermità. A questi detti il prete varcò la soglia ed, entrato nella camera, che a rapidi passi prese a misurare. Come? Esclamava. Come? Vorrebbe ella dunque cessare di vivere? Signora priora, soggiunse in un tono rauco e imperioso che richiamava la memoria di Torquemada, levate subito da questa stanza ogni oggetto pericoloso. Il regio revisore aveva adocchiato i miei bauli e mirava i libri, che erano a suo credere ben più pericolosi dell'arsenico e mettevano in pericolo cosa più preziosa della mia vita. Per evitare un violento conflitto, volli passare in altra stanza mentre la priora e il prete, assistiti da altre persone, si preparavano alla visita dei bagagli. Si cominciò dalla camera, che fu esplorata per ogni buco e bucolino, impadronitisi poi delle chiavi nella speranza di sorprendere qualche documento relativo a segrete società, ma aprirono le casse, esaminarono i sacchi, visitarono le cassette, spinsero l'esame perfino nei penetrali della biancheria. I soli oggetti che attirarono l'attenzione loro furono alcuni volumi di stampa forestiera, fra quali mi rammento il libro sopra Dante di Ozanam, l'altro sull'educazione di Tommaseo, gli inni sacri del Manzoni e un Carme alla libertà di Dionisio Salomos, eminente poeta della Grecia moderna. Fatta questa cattura, l'odiosità della ricerca fu adonestata col sequestro di coltelli, forchette, forbici, di un temperino e di altre cose consimili. Il nemico del vocabolo eziandio scendeva le scale quando io rientrava nella mia camera, voltosi con un amaro sogghigno in cui balenò tutta l'ingenita sua malvagità. Con vostro buon permesso, disse, riporterò a Sua Eminenza, vostro e mio benefattore, che tolti vi sono i mezzi di attentare alla vostra preziosa esistenza. E detto questo, scese la scala. Sfuggii peraltro alle loro indagini un fascio di carte, ben altrimenti pericoloso. Io era sicura che senza la mano d'un uomo del mestiere non avrebbero scoperto il ripostiglio contenuto in uno dei bauli. Ma di ciò dirò a suo tempo.